Terzo anello ad alta voce. Anna Karenina di Lev Tolstoi. Rimasta sola, Daria Alexandrovna esaminò la stanza con lo sguardo della padrona di casa. Tutto quello che aveva visto mentre si avvicinava alla casa e la attraversava, e ora nella stanza, produceva in lei un'impressione d'abbondanza ed eleganza e di quel nuovo lusso europeo di cui aveva letto solamente nei romanzi inglesi, ma ancora non aveva visto in Russia e per di più in campagna. Tutto era nuovo, a cominciare dalle tappezzerie francesi sino al tappeto che rivestiva il pavimento di tutta la stanza. Il letto era a molle con un materassino e lenzuola fini e piccoli cuscini coperti da federe di seta grezza. Il lavabo di marmo, la toilette, la sedia a sdraio, i tavoli, l'orologio di bronzo sul camino, le tende e i tendaggi alle porte, tutto era costoso e nuovo. L'elegante cameriera venuta ad offrire i suoi servigi, con una pettinatura e un vestito più alla moda di Dolly stessa, era anch'essa nuova e costosa come tutto il resto nella stanza. A Daria Alexandrovna facevano piacere la sua deferenza, l'eleganza e il fare ossequioso, ma con lei si sentiva a disagio. Si vergognava della propria camicetta rammendata che le era stata messa in valigia per sbaglio, come per disgrazia. Si vergognava di quei rammendi e di quelle toppe di cui a casa andava invece orgogliosa. Provò un gran sollievo quando nella stanza entrò una sua vecchia conoscente, Agnuska. L'elegante cameriera era richiesta dalla signora e con Daria Alexandrovna rimase Agnuska. Evidentemente Agnuska era molto contenta dell'arrivo di Daria Alexandrovna e chiacchierava senza posa. Dolly notò che aveva voglia di dire la sua a proposito della situazione della signora, specialmente a proposito dell'amore e della devozione del conte verso Anna Arcadievna, ma si preoccupava di interromperla ogni volta che lei cominciava a parlare di questo. «Con Anna Arcadievna io ci sono cresciuta, lei m'è più cara di tutto. Che dirvi, non sta a noi giudicare. Quando si ama, però, mi sembra. Allora, per piacere, questo dallo da lavare, se è possibile», l'interrompeva Daria Alexandrovna. «Sì, signora, da noi due donne sono appositamente addette alla lavatura, ma la biancheria si fa tutta a macchina. Il conte pensa a tutto, altro che un marito». Dolly fu contenta quando entrò Anna e con la sua venuta fece cessare il chiacchiericcio di Agnuska. Anna si era cambiata, mettendo un abito semplice di batista, che Dolly esaminò attentamente. Lei sapeva che cosa significava quella semplicità e a quale prezzo si acquistava. «Una vecchia amica», disse Anna di Agnuska. Anna adesso non era più turbata, era completamente disinvolta e tranquilla. Dolly vide che ormai si era completamente riavuta dall'impressione che le aveva prodotto il suo arrivo e aveva assunto quel tono superficiale, indifferente, sotto il quale sembrava chiusa la porta di quel reparto in cui si trovavano i suoi sentimenti e i suoi pensieri intimi. «Allora che fa la tua bambina, Anna?» domandò Dolly. «Annie», così chiamava sua figlia Anna, «sta bene, s'è molto rimessa. Vuoi vederla? Andiamo, te la mostrerò. Abbiamo avuto un terribile da fare con le bambinaie. Avevamo per Bali un'italiana, buona ma così stupida. Volevamo mandarla via, ma la bambina si era così abituata a lei che la teniamo tuttora». «Ma come avete risolto?» cominciò Dolly, volendo domandare che nome avrebbe portato la bambina, ma avendo notato che il viso di Anna si era improvvisamente aggrottato, cambiò il senso della domanda. «Come avete fatto? L'avete già svezzata?» Anna però capì. «Non è questo che mi volevi domandare, vero? Tu volevi domandare del suo nome, no? È una cosa che tormenta Alexei. Lei non ha un nome, ossia è una Karenina», disse Anna, socchiudendo gli occhi a tal punto che si vedevano solamente le ciglia congiunte. «Del resto», disse ad un tratto illuminandosi in viso, «di questo parleremo dopo. Andiamo, te la farò vedere». Thank you. No, la principessa è stanca, penso, e i cavalli non le interessano, disse Vronsky ad Anna, che aveva proposto di andare fino all'allevamento, dove Sviansky voleva vedere uno stallone nuovo. Voi andate, mentre io accompagnerò la principessa a casa e discorreremo un poco, se vi fa piacere, aggiunse rivolgendosi a Dolly. Di cavalli non capisco nulla, mi fa molto piacere, disse Daria Alexandrovna piuttosto meravigliata. Vedeva dalla faccia di Vronsky che lui aveva bisogno di qualcosa da lei. Non si era sbagliata. Non appena entrarono nuovamente nel giardino attraverso il cancelletto, Vronsky guardò dalla parte verso cui era andata Anna e, assicuratosi che lei non poteva né sentirli né vederli, cominciò. «Avete indovinato che desideravo parlare con voi», disse guardandola con gli occhi ridenti. «Non sbaglio pensando che siete amica di Anna». Si tolse il cappello e, preso il fazzoletto, si asciugò la testa che cominciava a diventare calva. Dolly non rispose nulla, limitandosi a guardarlo spaventata. Quando era rimasta sola con lui a tu per tu, improvvisamente aveva provato paura. Quegli occhi ridenti e l'espressione severa del viso la spaventavano. Le balenarono in testa le più varie supposizioni su ciò di cui egli aveva intenzione di parlare con lei. «Si metterà a chiedermi che mi trasferisca da loro con i bambini, come ospite, e io dovrò rifiutare. Oppure che a Mosca metta insieme una compagnia per Anna. O che non sia a proposito di Vashenka Veslovsky e dei suoi rapporti con Anna. O forse di Kitty, del fatto che lui si sente colpevole». Aveva previsto solamente cose spiacevoli, ma non aveva indovinato di che cosa voleva parlare Vronsky con lei. «Voi avete tanta influenza su Anna. Lei vi vuole così bene», disse lui. «Aiutatemi». Dolly si sedette su una panchina del giardino in un angolo del viale. Lui si fermò davanti a lei. «Vedo che lei è felice», disse, e il dubbio che lei fosse felice colpì ancor più fortemente Dolly. «Ma si può continuare così? Che si sia agito bene o male è un'altra questione. Il dado è tratto», disse, passando dal russo al francese. «E noi siamo legati per tutta la vita. Noi siamo uniti con i nodi per noi più santi dell'amore. Abbiamo una bambina, potremo avere altri figli. Ma la legge e tutte le condizioni della nostra posizione sono tali che si presentano migliaia di complicazioni che lei ora, dopo tutte le prove e le sofferenze e il bisogno che ha di rasserenare il suo spirito, non vede e non vuole vedere. E questo è comprensibile. Ma io non posso non vedere. Mia figlia, per la legge, non è mia figlia, ma una Karenina. Io non voglio questo inganno», disse con un energico gesto di diniego e guardò con una cupa aria interrogativa Daria Alexandrovna. Lei non rispose nulla, lo guardava soltanto. Egli continuò. «E domani nascerà un figlio, mio figlio, e per la legge sarà un Karenin. Non sarà erede né del mio nome né del mio patrimonio, e per quanto noi si sia felici in famiglia e per quanti bambini si abbia, fra me e loro non vi sarà legame. Saranno dei Karenin. Voi capite il peso e l'orrore di questa situazione? Ho provato a parlarne ad Anna. La irrita. Sicché, principessa, io mi aggrappo senza vergogna a voi come a un'ancora di salvezza. Aiutatemi a persuaderla a scrivergli e a esigere il divorzio». «Sì, naturalmente», disse in modo pensieroso Dolly, ricordando con vivezza l'ultimo suo incontro con Alexei Alexandrovich. «Sì, naturalmente», ripeté con decisione, ricordandosi di Anna. «Impiegate la vostra influenza su di lei. Fate in modo che gli scriva. Io non voglio e quasi non posso parlare con lei di questo». «Gliene parlerò. Ma come mai non ci pensa lei stessa?» disse Dolly, a questo punto ricordandosi a un tratto, per un qualche motivo, la strana nuova abitudine di Anna di socchiudere gli occhi. E si ricordò che Anna socchiudeva gli occhi proprio quando si trattava degli aspetti intimi della sua vita, come se socchiudesse gli occhi di fronte alla propria vita per non vedere tutto, pensò Dolly. «Gliene parlerò assolutamente, per me e per lei», rispose poi all'espressione di gratitudine di lui. Si alzarono e si incamminarono verso casa. Si accingeva già ad andare a letto quando Anna entrò da lei in abbigliamento da notte. Nel corso della giornata Anna varie volte aveva cominciato dei discorsi su cose intime e ogni volta, dette alcune parole, si fermava. «Dopo, a tu per tu, diremo tutto. Ho bisogno di dirti tante cose», diceva. Adesso erano a quattro occhi e Anna non sapeva di che cosa parlare. Stava seduto accanto alla finestra, guardando Dolly, e passava in rassegna nella sua mente tutto quel deposito che le era sembrato inesauribile di discorsi intimi e non trovava nulla. In quel momento le sembrava che tutto fosse già stato detto. «Beh, come sta Kitty?» disse dopo un pesante sospiro, guardando Dolly con aria colpevole. «Dimmi la verità, Dolly, lei non è arrabbiata con me?» «Arrabbiata? No», disse sorridendo Daria Alexandrovna. «Mi odia però, mi disprezza». «Oh no, ma tu lo sai, questo non si perdona». «Sì, sì», disse Anna voltandosi dall'altra parte e guardando verso la finestra aperta. «Ma io non ne avevo colpa. E chi ne aveva colpa? Che cosa vuol dire avere colpa? Poteva forse essere diversamente. Su, tu come la pensi? Era possibile che tu non fossi la moglie di Stiva?» Dolly sorrise. «Ma tu dimmi di te. Dobbiamo fare un lungo discorso noi due. E si è parlato con...» Dolly non sapeva come chiamarlo. Per lei era imbarazzante chiamarlo conte, come pure Alexei Kirillich. «Con Alexei?» disse Anna. «Lo so che avete parlato». «Su, allora, lui che cosa ti ha detto?» ripeté. «Ha detto che soffre per te e per sé». «Forse tu dirai che è egoismo». «Ma che nobile e legittimo egoismo! Innanzitutto lui vuole legittimare sua figlia ed essere tuo marito, aver diritto su di te!» «Quale moglie, pur schiava, può essere schiava al punto in cui lo sono io nella mia situazione?» la interruppe cupamente Anna. «L'essenziale, poi, ciò che lui vuole che tu non soffra!» «Oh, questo è impossibile! E poi?» «E poi, la cosa più legittima, vuole che i vostri figliuoli abbiano un nome». «Quale figlioli?» disse Anna senza guardare Dolly e socchiudendo gli occhi. «Annie e quelli che verranno». «Per questo può stare tranquillo, io non avrò più figli». «Come puoi dire che non ne avrai?» «Non ne avrò perché non ne voglio». E nonostante tutta la sua agitazione, Anna sorrise notando l'ingenua espressione di curiosità, di stupore e di spavento sul viso di Dolly. Me l'ha detto il dottore dopo la mia malattia. «Non può essere», disse Dolly spalancando gli occhi. Per lei questa era una di quelle rivelazioni le cui conseguenze e deduzioni sono così enormi che nel primo momento si sente soltanto che non è possibile prenderne tutti gli aspetti in considerazione, ma che bisognerà pensarci molto e molto. Questa rivelazione, che a un tratto le dava la spiegazione di tutte quelle famiglie, per lei prima incomprensibili, nelle quali c'erano soltanto uno o due bambini, aveva suscitato in lei tanti pensieri, considerazioni e sentimenti contraddittori che non seppe dir nulla, limitandosi, stupita, con gli occhi spalancati, a guardare Anna. Era proprio la cosa che aveva sognato anche quel giorno durante il viaggio, ma ora, avendo saputo che era possibile, se ne spaventò. Sentiva che era una soluzione troppo semplice di un problema troppo complicato. «Allora tanto più devi sistemare la tua posizione, se questo è possibile», disse Dolly. «Ah sì, se questo è possibile», disse Anna con una voce improvvisamente diversa, sommessa e triste. «Perché non è forse possibile il divorzio? Mi hanno detto che tuo marito consente». «Dolly, io non ho voglia di parlare di questo». «Va bene, non ne parleremo», si affrettò a dire Dolly, avendo notato un'espressione di sofferenza sulla faccia di Anna. «Quando penso a questo non posso più addormentarmi se non prendo la morfina. Ma va bene, parliamo con calma. Il divorzio, mi dicono. In primo luogo lui non me lo concederà. Adesso lui è sotto l'influsso della contessa Lidia Ivanovna». Eretta sulla sedia, Dolly, voltando la testa, seguiva con una faccia piena di sofferente partecipazione Anna che camminava. «Bisogna tentare», disse a bassa voce. «Ammettiamolo. Tentare. Ma che cosa vuol dire?» disse Anna, evidentemente esprimendo una riflessione mille volte ripensata e imparata a memoria. «Questo vuol dire che io, che lo odio e tuttavia mi riconosco colpevole nei suoi confronti e ritengo lui magnanimo, che io devo umiliarmi a scrivergli. Ma ammettiamolo, compirò uno sforzo, lo farò. Riceverò una risposta offensiva oppure il consenso. Va bene, ricevo il consenso». In questo momento Anna era all'estremità opposta della camera e qui si fermò, armeggiando con la tenda di una finestra. «Ricevo il consenso e mio figlio, perché loro non me lo renderanno. E lui crescerà disprezzandomi in casa del padre che io ho abbandonato. Cerca di capire che io amo, credo egualmente, ma comunque entrambi più che me stessa, due esseri, Seriosha e Alexei. si portò nel mezzo della stanza e si fermò dinanzi a Dolly, premendosi il petto con le mani. Nella vestaglia bianca la sua figura sembrava più grande e larga. Aveva chinato la testa e guardava di sotto in su con gli scintillanti occhi umidi la piccola Dolly, tutta tremante per l'agitazione, magrolina e pietosa nella sua camicetta rammendata e la cuffietta da notte. «Solamente questi due esseri io amo, e uno esclude l'altro. Non posso unirli, mentre questa è l'unica cosa che mi occorre. E se non ho questo, tutto è lo stesso per me, tutto, tutto è lo stesso». E in qualche modo finirà, e per questo non posso, non amo parlar di questo. Sicché tu non rimproverarmi, non giudicarmi in nulla. Con la tua purezza tu non puoi capire tutto ciò di cui soffro. Si avvicinò, si sedette accanto a Dolly e scrutandone il viso con un'espressione colpevole, la prese per mano. Che cosa pensi? Che cosa pensi di me? Non disprezzarmi, non valgo il disprezzo. Sono veramente disgraziata. Se qualcuno è disgraziato, questa sono io. Proferì e, voltatele le spalle, scoppiò a piangere. Rimasta sola, Dolly pregò Dio e si coricò. Con tutta l'anima aveva provato compassione per Anna mentre parlava con lei, ma ora non poteva costringersi a pensare a lei. I ricordi della casa e dei bambini insorgevano nella sua immaginazione con un fascino per lei nuovo, in una specie di luce nuova. Quel suo mondo le sembrava ora così caro e prezioso che per nessuna cosa al mondo voleva trascorrere una giornata di più fuori di esso e decise che l'indomani sarebbe partita assolutamente. Anna intanto, ritornata nel suo studio, prese un bicchierino e vi versò alcune gocce di una medicina in cui era parte importante la morfina, e dopo aver bevuto ed essere rimasta a sedere per qualche tempo immobile, andò nella camera da letto con lo spirito rasserenato e gaio. Quando entrò nella camera da letto, Vronsky la guardò con attenzione. Cercava le tracce della conversazione che, lo sapeva, lei aveva dovuto avere con Dolly, essendo rimasta così a lungo nella sua stanza. Ma nell'espressione di Anna, eccitata e contenuta, che celava qualcosa, non trovò nulla eccetto la bellezza, per lui ormai abituale, ma sempre seducente, la consapevolezza di essa e il desiderio che essa agisse su di lui. Non voleva domandarle di che cosa avessero parlato, ma sperava che lei stessa gli avrebbe detto qualcosa. Ma lei disse soltanto: «Sono contenta che Dolly ti sia piaciuta, non è così? Ma io la conosco da molto tempo. È molto buona, mi sembra, mais excessivement terre à terre. Comunque sono stato molto contento di vederla». Prese la mano di Anna e la guardò interrogativamente negli occhi. Avendo capito in altro modo quello sguardo, lei gli sorrise. Please talk to me, English man. Oh, listen, Englishman, I've honored you, hard Englishman. Now I am calling your heart to my own. Oh, let glorious love be done, be truthful, Englishman. How come you never say you're sorry? And I do. I do. Elsa Galvato ha letto Anna Karenina di Lev Tolstoj. Riduzione del testo di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it